Boker Tov, buongiorno e benvenuti alla lezione con l'Eltorà di Mishnah. Oggi, grande novità, concludiamo, se Dio vuole, la Masechet, il trattato di Rosh Hashanah. E, se Dio vuole, dopo la conclusione, facciamo anche un Kaddish. La penultima Mishnah del trattato di Rosh Hashanah ci parla di un dilemma che potrebbe verificarsi nel momento in cui bisogna suonare lo shofar di Rosh Hashanah. Sappiamo benissimo che suonare lo shofar di Rosh Hashanah è una mitzvah positiva della Torah. Mitzvat asé mi deoraita, una mitzvah che è scritta sulla Torah, che nel giorno di Rosh Hashanah si suona e bisogna ascoltare il suono dello shofar. Cosa succede se per poter avere la possibilità di suonare lo shofar di Rosh Hashanah bisogna fare un'attività che, visto che è Moed, sarebbe in teoria vietata? Cioè, se lo shofar si trova ad una distanza, che per percorrere quella distanza bisogna andare contro le regole del Moed, oppure se si trova in una condizione, come vedremo qualche esempio nella Mishnah, che richiede un'attività che è vietata di Moed, qual è la cosa che prevale? La mitzvah dello shofar respinge il divieto di Moed per poter comunque garantire il suono dello shofar durante il giorno di Rosh Hashanah, oppure il rispetto dell'osservare il giorno di Moed nella sua così come la sua regola richiede, prevale e quindi non si suona lo shofar. Allora vediamo cosa dice la Mishnah. Shofar shel Rosh Hashanah, ciò che riguarda lo shofar di Rosh Hashanah, en ma'avirin alav et ha'techum. Sappiamo che durante il Shabbat Moed abbiamo un divieto di andare fuori dai limiti di un certo limite oltre i limiti di una città, quindi anche se uno non prende la macchina o non cavalca sul cavallo l'asino, ma esce a piedi fuori dal limite della città o oltre un certo limite, non si può né durante Shabbat né durante Moed. C'è Esiste l'eruv. il concetto di Eruv Techumin, bene, per allungare questo limite, ma anche oltre l'Eruv poi non può più andare, quindi molto bene. Se per arrivare allo shofar bisogna andare oltre questo limite, en ma'avirin, non si va oltre il limite e non si sente lo shofar. Ok? La Gemara spiega per quale motivo prevale l'altro divieto e non prevale la mitzvah dello shofar, perché noi abbiamo una regola generale. C'è la mitzvah positiva di suonare lo shofar e c'è la mitzvah di Moed. La mitzvah di Moed è una mitzvah positiva o negativa? Tutte e due. C'è una mitzvah negativa di non fare melacha, lo ta'aseh melacha, o kol melacha lo ta'aseh, kol melechet avodah lo ta'aseh, non fare alcun tipo di melacha, quindi tutto ciò che è vietato fare di Shabbat è vietato fare anche di Moed, e quindi c'è una mitzvah negativa, ma c'è anche nel Moed una mitzvah positiva, nello specifico stiamo parlando di Rosh Hashanah, b'chodesh ha'shevi'i, b'echad l'chodesh yeh lachem shabbaton. Questo giorno è per voi un giorno di riposo, cioè di festività, quindi e questo è detto in linguaggio positivo. Sarà per voi una giornata da trattare in questa maniera. Quindi abbiamo una regola generale, che non si applica solamente qui, ma si applica in moltissimi casi che la Gemara cita, che una mitzvah a sé, una mitzvah positiva come suonare lo shofar nel nostro contesto, non prevale su una mitzvah a sé e lotta a sé insieme, su una cosa che ha in sé sia un aspetto positivo di mitzvah e un aspetto negativo di mitzvah. Visto che il Moed dipende da due cose, una mitzvah positiva e negativa, e lo shofar dipende solo da uno, cioè dalla mitzvah positiva, non ha il potere di respingere il divieto del Moed. E di conseguenza abbiamo anche altri esempi nella Mishnah di cose che sarebbero vietate e che farebbero sì che forse non si sentirà lo suono dello shofar. Per esempio, dice la Mishnah, ven mefakhin alav et agal, se c'è una frana, una caduta di un muro o di delle rocce, eccetera, e sotto questa caduta, sotto questa frana c'è lo shofar, ed è Moed, è Rosh Hashanah, quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo spostare, rimuovere le macerie. Queste macerie sono mukzeh. Di per sé è vietato entrare in contatto con queste macerie durante lo Shabbat Moed, e che tra l'altro questo è un divieto dei Chachamim, non è neanche un divieto deoraita. I maestri hanno detto ciò che è vietato di Moed è vietato, anche se è un divieto solo dei Chachamim, E quindi non si toglie le, non si rimuovono le macerie per arrivare allo shofar. Terzo esempio, lo olin ba'ilan. Se lo shofar si trova su un albero, non si sale, non ci si arrampica sull'albero. In generale è vietato Moed Shabbat arrampicarsi su degli alberi. Perché? Perché è facile che si arrivi a strappare una foglia o un ramo nel cercare di arrampicarsi, e quello sarebbe un divieto della Torah durante Shabbat o Moed. Di conseguenza, il maestro ha detto di Shabbat: state calmi, non arrampicatevi sugli alberi. Questo divieto rimane in vigore anche qualora lo shofar fosse sopra l'albero. E altro esempio ancora: veloro chvin al gabei bema, e non si va a cavallo di un animale che sia. Per esempio, l'esempio che fanno i commentatori: se una persona sta male e per andare al tempio a sentire lo shofar non può andare a piedi, deve andare a cavalcare su qualcosa, e abbiamo l'esempio moderno chiaramente della macchina, della moto, eccetera, o prendere il treno, quello che è. Allora non si va a cavallo, dice la Mishnah, per andare a sentire lo shofar. Velo shatin al pene amaim, e inoltre non si prende Non si un naviga. mezzo per attraversare un corso d'acqua. Quindi una nave o quello che è, una barchetta, lo stesso divieto che vale sempre, vale anche quando c'è lo shofar, o c'è l'unico modo per arrivarci è facendo questo. E poi parliamo adesso dello shofar stesso. Se lo shofar stesso ha bisogno di una modifica per poter essere idoneo a poter appunto emettere un suono, quindi magari deve essere tagliato, che Carlo è esperto di questo lavoro, non si può fare se è già moed. Ve'en chotrin oto, non lo si può tagliare. In nessun modo. Che vuol dire in nessun modo? La Mishnah dice: uno potrebbe tagliarlo in una maniera che non incorre in un divieto della Torah, oppure potrebbe usare lo strumento idoneo, la sega che usa speciale per lo shofar, eccetera, che è proprio un divieto della Torah. In un modo o in un altro, sempre vietato. Ben bedavar shum mishum shvut, che sia una cosa vietata per i maestri, cioè un allargamento del divieto stesso, una siepe intorno al divieto stesso. Uben bedavar shum mishum lo taaseh, oppure se è un divieto vero e proprio della Torah, appunto come dicevo, usando lo strumento stesso ufficiale, diciamo che è fatto per questo, in tutti questi casi cosa si fa? Non si sente il suono dello shofar di Rosh Hashanah. In alcune cose però si possono fare. Aval im razzali ten le tocho maim o yain, se la persona vuole rendere più chiaro il suono dello shofar pulendo con dell'acqua o con del vino, molti usano l'aceto per pulire l'interno dello shofar, che abbia un suono più chiaro, allora questo è permesso, iten, è permesso metterci questi liquidi anche durante Rosh Hashanah, e non è considerato un problema, un divieto di aggiustare, di rendere idoneo uno strumento, che normalmente è vietato anche accordare, per esempio, uno strumento musicale, perché metti appunto la possibilità di usare quello strumento, quindi è vietata questa cosa. Ma in questo caso, che è solo una pulizia, non è considerato un problema ed è permesso farlo di Moed. Ora la Mishnah entra nel discorso dei bambini. En me'akvine tatinokot militkoa. Se i bambini stanno giocando con lo shofar, suonandolo, ma come gioco, non come mitzvah, durante Rosh Hashanah, non siamo obbligati a toglierlo. In altre parole, normalmente lo shofar di Rosh Hashanah si usa solo per la mitzvah, perché normalmente non suoniamo Shabbat e Moed, strumenti musicali. Quindi in teoria anche lo shofar rientra in questa cosa, però per la mitzvah dello shofar, eccezione. Se i bambini stanno giocando suonando lo shofar, non glielo dobbiamo togliere. Aval mitaskini mahen acci il medu. Quindi non solo non dobbiamo togliergli lo shofar, ma è anche permesso noi aiutarli a imparare come suonarlo meglio. Quindi possiamo anche dargli una mano nell'imparare come suonarlo meglio. Vea mitasek, colui che si sta, ora un'altra regola, colui che si sta occupando di suonare lo shofar non per la mitzvah, ma semplicemente o per allenarsi o per capire come si fa. E quindi soprattutto per imparare, lo yatzah, anche se ha fatto dei suoni buoni, che sarebbero teoricamente andrebbero bene per la mitzvah, comunque lo yatsa, cioè non esce l'obbligo della mitzvah, visto che la sua intenzione era quella semplicemente di esercitarsi. Non avendo avuto l'intenzione di fare la mitzvah, non è quindi uscito l'obbligo. Ugualmente, quindi, conclude questa Mishnah, ve'ashomea mina mitasek, colui che ascolta il suono di chi sta esercitandosi, anche se chi ascolta lo vuole ascoltare per la mitzvah, quindi non è che si esercita ad ascoltare, si vuole sentirlo per fare la mitzvah, comunque non esce l'obbligo, perché? Perché servono due intenzioni, intenzione di fare la mitzvah per chi suona e intenzione di fare la mitzvah per chi ascolta. Quello che ascolta in questo caso avrebbe l'intenzione, ma visto che chi suona lo fa per esercitarsi, non abbiamo entrambe le condizioni e quindi lo yatsa, non si esce l'obbligo. Ora arriviamo all'ultima Mishnah del nostro capitolo quarto del trattato e l'ultimo Mishnah di tutto questo Masech, di tutto questo trattato. E la Mishnah ci insegna esattamente l'ordine e la lunghezza richiesta dei suoni stessi dello shofar. Seder Tekiot, l'ordine da seguire nei suoni dello shofar durante appunto Rosh Hashanah, quando abbiamo la mitzvah, è il seguente ordine. Shalosh, tre gruppi, Shel Shalosh Shalosh, ognuno di tre suoni. Che vuol dire? Abbiamo studiato già riguardo il Musaf dell'Amidah di Rosh Hashanah, che abbiamo un gruppo di suoni in corrispondenza al primo elemento del Musaf, che è Malchuyot, ciò che riguarda, ciò che recitiamo, che riguarda il regno e la nostra sudditanza verso HaKadosh Baruch Hu. Il secondo gruppo riguarda memorie, Zichronot, i ricordi del merito dei nostri avi e così via. E il terzo è l'elemento delle Shofarot, quindi ciò che recitiamo tratto dalla Torah e dai profeti riguardante appunto i suoni dello Shofar. E ogni volta si fanno tre suoni. Quali sono i tre suoni? Tekia, Teruà, Tekia. Cioè, la Torah parla del suono dello shofar che si chiama Teruà. E la Teruà è sempre accompagnata prima e dopo da una Tekia, quindi da un suono semplice. Ok? Ora, noi abbiamo più suoni di solamente tre suoni. Giusto? Perché sulla esatta definizione della Teruà c'è una non chiarezza. Da una parte abbiamo la tradizione che ci insegna che la teruah è un suono modulato, quindi tutto tagliuzzato, e dall'altra parte abbiamo una tradizione che ci insegna che la teruah è uno suono allungato e spezzato, meno modulato rispetto al secondo. Quindi cosa facciamo? Facciamo entrambi questi suoni. Per rientrare sicuramente nella mitzvah facciamo entrambi i suoni. E abbiamo assunto un nuovo nome per uno di questi suoni, che è Shevarim. Quello che è spezzato si chiama Shevarim, noi chiamiamo Shevarim, e quello che è tutto modulato noi lo chiamiamo sempre Teruah. Ora, prima e dopo bisogna che ci sia Tekiah, quindi un suono lungo e semplice, prima della Teruah e dopo della Teruah. Però cosa è la Teruah? Se la Teruah è un insieme di questi due suoni che abbiamo detto, spezzato e modulato, allora prima di questo ci deve essere un tekiah e dopo di questo ci deve essere una tekiah. Per questo noi facciamo tekiah, suono semplice, shevarim teruah insieme, spezzato e modulato insieme, e poi un'altra tekiah. Poi se è giusto che la teruah è solo il suono modulato, facciamo anche questo, tekiah, suono modulato, e un'altra tekiah. Se è giusto che è solo il suono spezzato, facciamo anche questo. Tekiah, shevarim, suono spezzato, e di nuovo suono semplice. Quindi noi facciamo più suoni rispetto a quella che è la regola, teoricamente, per rientrare nella regola che appunto non è chiara esattamente la definizione del suono. Ma quello che la Mishnah dice è la base. Poi su questo la Gemara spiega come si arriva a quello che facciamo noi. Ora la Gemara ci dice, la Mishnah ci dice quanto deve essere lungo il suono della tekiah. Shiur tekiah, la misura, diciamo, di quanto deve essere lungo la tekiah, quindi il suono semplice, che shalosh teruot, deve essere lungo quanto tre suoni modulati. Questo significa che ogni tekiah risponde a un suono modulato. Cioè per tre suoni modulati si intende tutte le tekiot, quindi tutti i suoni semplici che precedono il suono modulato, devono essere lunghi quanto tutti i suoni modulati. In altre parole, come se dicesse una tequila equivale alla lunghezza di una teruah. Ok? Quindi questo è molto importante perché ci fa capire quanto il tokea, colui che fa la tequila, quanto deve suonare, che lunghezza ha il suono. Ora, ci hai detto che la tequila ha la stessa lunghezza della teruah, ma qual è la lunghezza della teruah? La Mishnah dice, shiur teruah, la lunghezza della teruah, che shalosh yabavot, sono tre suoni corti, spezzati, come se uno piangesse, facesse dei singhiozzi, così allungati, quando uno piange fortemente, allora tre di questi suoni spezzati equivalgono ad una teruah, che a sua volta equivale ad una tequila per lunghezza. La Mishnah continua e dice, Taka barishona, qualora si fa una tequila, quindi la persona ha fatto una tequila normale, come deve fare? Poi, un mashach bashenia kishtaim, ma la seconda tequila che ha fatto dopo il suono modulato, l'ha allungata come se fossero due tequiot, ok? En biado elachat, è sempre considerata una. Cioè, molto semplice, cosa facciamo noi? Facciamo il suono semplice, tequila, poi il suono modulato, poi un altro suono semplice. Poi un altro suono semplice, l'altro tipo di suono modulato e un altro suono semplice. Ora, se io unisco i due suoni semplici, la fine del primo gruppo e l'inizio del secondo gruppo, e dico, va bene, faccio una tequila, un suono semplice lungo, che mi copre sia la fine del primo gruppo che l'inizio del secondo. La Mishnah dice no. En biado elat kia achat. La consideriamo un unico suono semplice, un'unica tequila, che mi copre solamente la chiusura del primo, adesso devo fare una nuova tequila per il secondo. E in altre parole, questo mi sta anche dicendo che la tequila, anche se si allungasse, è sempre una ed è sempre valida. Cioè il minimo che noi abbiamo detto è un minimo, ma non un massimo. Per ciò che riguarda la tequila, il minimo deve essere lungo quanto una teruah, quanto tre suoni spezzati, ma il massimo può allungarsi. E rimane valido ed è rimane però sempre una tequila. Scusa, da una Sì? tequila all'altra si deve fermare. Assolutamente sì. Quello. Tra una tequila e Deve l'altra, questo è molto differenziare. importante, la rega dice, per differenziare bisogna anche prendere fiato, non solamente interrompere, ma è obbligatorio prendere un po' di fiato, cosa che differenzia, distingue tra una e l'altra. Prossima regola della Mishnah, abbiamo quasi concluso. La Mishnah dice, Mishe Berach, colui che ha detto le Berachot, cioè ha fatto tutte le benedizioni che sono scritte sul Musaf, ok? Ma non aveva uno shofar. Noi abbiamo detto che dalla fine di ognuna delle tre Berachot speciali all'interno dell'Amidah di Musaf si suona lo shofar a Rosh Hashanah. Come facciamo? Ma se non c'era lo shofar, quindi ha fatto già le Berachot, ha già fatto l'Amidah di Musaf, ve'achar kach nitmana lo shofar, e poi gli si è capitata la possibilità di avere uno shofar, cosa fa? Tokea, Umeria, Vetokea, Shalosh Pe'amim. In quel momento in cui gli arriva lo shofar, fa tutti e tre i suoni dello shofar. Tikia, Teruah, Tikia. Fa tutto anche se non è più sull'ordine di come, perché lui l'Amidah l'ha già fatta. Domanda lo Shivarim. Lo Shevarim è incluso nella Teruah. Sì, quello che dicevo prima, che la Mishnah adesso non entra nel dettaglio dello Shevarim, quindi il suono spezzato e la Teruah il suono più modulato, però lo sottintende e la Gemara allunga la spiegazione. Ora, Keshem Sheshliach Tzibur Chayav, in generale, così la Mishnah dà una regola generale, così come lo Shaliach Tzibur, quindi il delegato del pubblico, chi è il delegato del pubblico? L'officiante, il Chazan, lo Shaliach Tzibur, è obbligato a dire tutta l'Amidah di Rosh Hashanah, e così anche in realtà, dicono i commentatori, l'Amidah di tutti i giorni di tutto l'anno, Kach Kol Yachid V'Yachid Chayav. Così anche è obbligato ogni individuo, ogni singola persona ha lo stesso obbligo, cioè normalmente non si esce l'obbligo semplicemente ascoltando e rispondendo all'Amidah fatta dallo Shaliach Tzibur, quindi dall'officiante, se l'Amidah dell'officiante può essere valida per qualcuno che non sa assolutamente come pregare, né in italiano, né in inglese, né in ebraico, non ha nessuna possibilità di pregare, allora si può appoggiare al uscir l'obbligo dalla tefilà dello Shaliach Tzibur. Ma in caso normale, lo Shaliach Tzibur ha un obbligo e tutti quanti hanno anche un obbligo personale. È anche giusto, dice la Gemara nel Talmud di Rushalmi, che nella Tefilah ognuno chiede per le proprie esigenze, ognuno chiede che HaKadosh Baruch Hu abbia misericordia di sé, ed è giusto che tu chiedi per te. È normale. Conclude la Mishnah e dice Rabban Gamliel Omer, Shliach Tzibur Motzi et Arabim Yedei Chovatan. Secondo Rabban Gamliel, lo Shliach Tzibur, quindi l'officiante, fa sì uscire l'obbligo del pubblico, sia chi ha la possibilità di pregare, sia chi non sa come pregare, sia per Rosh Hashanah che per tutte le tefilot dell'anno. E allora se è così... con la Bet Knesset, se è così, allora perché preghiamo? Perché facciamo la tefilah a bassa voce se lo Shaliach Tzibur, secondo Rabban Shimon Ben Gamliel, ci fa uscire a tutti l'obbligo anche se sappiamo pregare? Perché secondo lui noi diamo il tempo allo Shaliach Tzibur per prepararsi bene la tefilah, che lui sia pronto a farla. Però ci potremmo teoricamente appoggiare alla sua tefilah. La halakha cambia per tutto l'anno e per Rosh Hashanah. Per tutto l'anno la halakha finale segue l'opinione dei maestri, non quella di Rabban Shimon Ben Gamliel, che la tefilà dell'officiante non ci fa uscire l'obbligo, dobbiamo ognuno di noi fare la propria tefilà, la propria amida. Quando parliamo qui di tefilà stiamo parlando in maniera specifica di amida. Mentre invece, per ciò che riguarda le tefilot di Rosh Hashanah, particolare Musaf, che hanno molte berachot lunghe e molti non sanno fare questa tefilà, lì la halakha segue Rabban Shimon Ben Gamliel, scusate, Rabban Gamliel, che in quel caso lo Shaliach Tzibur, l'officiante, fa sì uscire l'obbligo sia a chi sa pregare che a chi non sa pregare. E con questo Salek Masechet Rosh Hashanah, con questo abbiamo concluso il trattato di Rosh Hashanah e ora facciamo il Kaddish. Rabbi Hananya ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu Zakot Israel, Lefichach Irba Lehem Torah Mitzvot Shenemar, Adonai Chafetz Eman Tzidko, Yagdil Torah V'Yadir. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה בריחו. אלא מכל ביחדה שירתה ותשברתה וכנתה דאמירה מעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און דעסקים ואוהד הקדישתה דיה ותעדה וכל אתה ואתר. יהיה לנה ולא נכון חינה וחיסדה ורחמה וחיים ארכיכם וזהו רביכם מן כתב ואוכל משמעיה והרעב ואמרו אמן. יש למה רבה משמעיה וחיים טובים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם אומה ורחמה ויעשה שלום עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. אמן. קויסה לימוד דדיקטו עם ממור ידי אברהם מנחם בן עזרא נוחתו בגן עדן.